Bene, come annunciato anche Mario Monicelli. Buongiorno Mario. Ciao, buongiorno. Come va? Abbastanza bene. Allora, com'è andato intanto il viaggio? Cioè, eravamo lasciati un paio di settimane fa. Il viaggio in Iran, a Teheran, è andato bene. È un viaggio abbastanza faticoso perché sono degli orari curiosi. Si arriva là, per esempio, il mattino alle 3:30, 4 della mattina. E si riparte per la partenza per Roma, viene alle 2 del mattino, insomma, voglio dire, quindi si arriva poi la mattina, qui è tutto scombinato. Però vale anche la pena di vedere quello che si va a vedere. Sei stato una decina di giorni? Sono stato meno, no? 6-7 giorni. 6-7 giorni. Com'è andato questo incontro con i registi iraniani, Kiarostami? Ma io Kiarostami lo conoscevo di già perché l'avevo incontrato un paio di volte, del resto lui l'avevo visto a Perugia, che mi aveva invitato lui a Teheran, in Iran, e quindi lo conoscevo, ci siamo rivisti altre 2 o 3 volte. Poi ho visto dei 2 giovani registi molto simpatici, uno che vive fra gli Stati Uniti e Teheran, direi, e l'Iran, e l'altro invece che vive lì in Iraq è soprattutto un documentarista. Sono molto attivi, molto bravi, ma lì il cinema è molto attivo, perché... Ecco, che impressione hai avuto parlando con loro rispetto alla cinematografia iraniana? Ma lì la cinematografia iraniana direi che è molto attiva, perché fanno 60-70 film all'anno come noi, e quindi voglio dire, per una regione, uno stato così giovane, poi uno stato come posso dire, teocratico, sì. Quindi è una scenografia molto curata. La verità è che lì loro privilegiano molto quello che riguarda i bambini, quindi i loro film, che sono film che riguardano molto la guerra Iraq-Iran, però credevo che fossero più di propaganda, però sono pacifisti, cioè cercano di far vedere, insomma, di affratellare, di far sì che un giovane fanciullo iraniano alla fine stia salvi un soldato iracheno che si trova in una malpartito, allora insomma lo tragga in salvo e non lo faccia morire. Insomma, frequentano questa fratellanza ormai, gli ultimi film che stanno facendo. Fanno solo film in realtà iraniani, e solo film e molti documentari. Molti documentari. E soprattutto riguardano i bambini, fanno lavorare i ragazzi, e quasi tutti sono protagonisti questi ragazzi, che sono bravissimi. Quindi attori non professionisti. Sì, molto spesso anche. Mischiati poi attori professionisti, in genere anziani, antichi e vecchi attori molto noti, molto amati da loro. No, ma poi c'è una sezione molto particolare che fanno, che si chiamano i film spiritualisti, di cui c'hanno proprio, addirittura c'hanno una sezione in cui fanno danno dei premi al miglior film spiritualista. Sono film appunto spiritualisti, di carattere religioso. Io non ho visto uno abbastanza bello, devo ma dire. Ma con che approccio la religione? Allora, l'approccio non ho, questo qui era un riconoscimento, è una storia abbastanza curiosa di 2 ragazzi che, giocando così, per colpa di un ragazzo che commette un'imprudenza, il suo amico, il suo compagno, precipita in un burrone e muore. Allora, siccome questo qui è un armeno, quello che è precipitato, e quindi cattolico, allora lui, che è un musulmano, va alla chiesa cattolica, che c'è lì, dove c'è un prete cattolico armeno, e gli chiede, dice, vabbè, voi che fate il vostro Gesù Cristo, che loro conoscono, ha resuscitato, resuscita i morti, ha resuscitato lui stesso, perché non mi fa resuscitare il mio amico? Ecco, e quello dice, ma no, veramente noi non è questo il nostro... Ecco, e questo bambino non si arrende e continua a insistere, va poi da un altro, va anche da un suo mullah musulmano, e gli chiede anche lui la stessa cosa, e quello gli fa capire che non è quello il punto. E lui insiste, insomma, poi ruba una croce insieme ad un altro suo amico armeno, con questa croce vanno in giro, insomma alla fine la cosa si risolve abbastanza, direi, misteriosamente, non è chiarissimo, ma insomma va tutto bene, resuscitano e tutti sono salvi e felici. Però è fatto bene, è girato molto bene, con posti belli, con attori bravi, senza troppe smancerie, con molta semplicità, ma devo dire, insomma, sono bravi da fare, ho visto un paio, sono abbastanza bravi a fare questo. Ecco qua, questa è la cinematografia iraniana, è questa. Bene, bene. Però tecnicamente sono molto avanti, bellissima fotografia, la colonna sonora anche molto curata e molto a posto. Insomma, voglio dire, una buona impressione, quindi. Sono professionalmente, sono a posto. Certo, sono uno stato teocratico e lo possono dire tutto quello che vogliono, c'è poco da fare. Torniamo in Italia, visto che sei tornato anche tu. Berlino, Saverio Costanzo, che ha presentato In memoria di me, che è tratto dal libro di tuo fratello. Sì, sì. Beh, la cosa mi ha molto, non dico stupito, perché lo sapevo che erano in contatto sia mio fratello che Costanzo già un anno o due fa, perché la cosa è stata molto lunga, di gestazione molto lunga. Ma io non lo so, ho letto il libro, lo conosco, un bellissimo libro, conosco Costanzo che è un regista di grande qualità. Ecco, infatti parlavamo l'altra volta, se non sbaglio, proprio di Private, il film d'esordio di Costanzo, che ti era piaciuto. Sì, perché è un film molto semplice, non prende parte, non si schiera per nessuno, e già questo vuol dire che è schierato, e quindi però è obiettivo, non vuol forzare la mano a nulla ed è anche, direi, molto penetrante. Ora, questo film sulla la vocazione di un gesuita che va in un seminario e tutto quello che incontra, il libro io l'ho letto ed è un libro molto quello, anche molto acuto, molto penetrante, molto insistente, non certamente appassionale, però vedo, ho visto, ho sentito, ho letto sul Corriere, sulla Repubblica, che i recensori erano molto molto soddisfatti. Sì, erano, sì, le impressioni sembrano buone. Molto impressionati dal lavoro di Costanzo, soprattutto, vabbè, il romanzo lo conoscevano dal lavoro di Costanzo, quindi io sono contento sia personalmente perché sono fratello del soggettista. Ecco, il taglio del libro com'è? Tu che l'hai letto? Il taglio del libro è così, è molto duro, è impietoso. Quello, il rapporto fra i ragazzi che poi sono lì in seminario e i loro superiori e fra loro è quasi intollerabile, cioè questi superiori non gli risparmiano nessuna durezza di nessun genere. Tanto è vero che non so quale percentuale, ma credo molto alta, alla fine del corso lasciano, nel senso, tornano, voglio dire, non seguitano, così ha fatto mio fratello anche. Quindi, cioè, c'è tutto, loro sono, ti dicono che tu devi imparare a essere indifferente a tutto, qualunque cosa ti capiti intorno a te, ti capiti, devi essere indifferente, tu sei solo un soldato di Cristo e tutto il resto ti deve essere indifferente, assolutamente. Senti Mario, tu sei di nuovo in partenza, ma domani, no, se non sbaglio, ma stasera chi hai deciso poi per la proiezione, ci vieni? Non credo che potrò, perché parto domani mattina alle 8, ho capito, quindi devo andare lì prestissimo. Ad ogni modo, io se me la sento, sì, se me la sento ci vengo, dimmi bene dov'è, a che ora. Ci risentiamo, allora ti faccio uno squillo più tardi. Va bene. Però ci sentiamo qui in diretta per la settimana prossima, se sei tornato. Spero di sì, spero di essere tornato, non sono sicuro perché... Ormai sei un redattore. Vabbè, ti ringrazio. Un abbraccio Mario, ciao, buon viaggio. Ciao. Buon lavoro, grazie. Ciao. E quindi noi sentiamo il nostro altro redattore Mario Monicelli, buongiorno. Ciao, buongiorno. Come va? Ma abbastanza bene, sono venuto due o tre giorni fa da Los Angeles. Sei in continuo spostamento. Valigia, non mi è arrivata la valigia, naturalmente, quindi ricerche, cose, eccetera, la valigia non arrivava, ecco. Senti, ti muovi di continuo? Mi muovo di continuo, sì, anche perché se c'è l'occasione la colgo. Che faccio? Se rimango io vivo solo e che sto, seduto in poltrona a far che? A parte che devi venire con me a qualche anteprima. Ah sì, volentieri, come certo. No, io vengo volentieri, vedere l'anteprima, andare con la gente, io sono ben contento. Bene, bene. Allora, ci racconti un po' questo viaggio ad Hollywood, come... Ma io dirò che sono rimasto abbastanza sorpreso, perché non è la prima volta, sono andato altre 4-5 volte prima, però ero andato perché avevo questa nomination, che poi sono candidature, non so perché si devono chiamare nomination, comunque le candidature che poi non hanno avuto nessun esito, però mi avevano dato la possibilità di stare lì, andare 2 o 3 giorni, certo non di più. E quindi questa volta però invece sono andato perché era un'altra occasione perché c'era un operatore culturale, come si dice oggi, questo Pascal Vicedomini, il quale faceva così un certo richiamo, non so, loro si chiama omaggio con grande al cinema italiano, che poi insomma dava qualche film italiano in anteprima prima che uscissero in Italia o in televisione, e poi davano un film mio di quelli soliti, insomma, soliti ignoti, oppure La Grande Guerra, e allora sono andato e ho avuto l'occasione di vedere bene questo Los Angeles, e francamente è una cosa abbastanza inquietante, perché è una città immensa, sparsa su un territorio sterminato di 18, 15, 16, non si sa bene, milioni di abitanti, e siccome non ci sono grattacieli, se non c'è un centro che è la downtown, che c'è un po', ci sono un po' di grattacieli ma non proprio altissimi, e tutto il resto sono sparse su queste villette o ville o villotte che occupano tutto un certo spazio, giardini, giardinetti, che è una cosa anche direi molto civile, molto bella, però è una città morta, perché tu vai in giro per queste bellissime boulevard, avenue, grandi viali piene di auto silenziosissime, molto belle, non ce n'è una che non sia di grande cilindrata, di grande classe, nessuno di esse i motori non fanno rumore, lì sono tutti molto educati, civili, non c'è un clacson, non c'è nulla, e c'è un flusso immenso, silenzioso di quest'auto misteriosa di cui non si vede l'interno, lungo grandi marciapiedi, grandi viali assolutamente deserti, non c'è nessuno che cammini mai per la strada per chilometri e chilometri e chilometri, è una città deserta attraversata da automobili silenziose e misteriose. In effetti è inquietante, tanto è vero che io poi sono andato un po' a vedere, ed è una cosa che ti lascia perplesso, perché dico, ma dove sta la gente, come fa? Poi questi 18 milioni di abitanti ci sono, e loro vivono tutti negli interni, vivono nei magazzini, sono tutti però chiusi, sono tutti all'interno di mura bellissime, di giardini oppure di costruzioni molto belle, oppure vivono nei ristoranti o nei locali anche di cinema, oppure di musei, oppure di alberghi. Per la strada non ce ne sono, sono tutti ritirati dentro. Oh, d'altra parte poi è una città industriale, perché il cinema è la città del cinema. Il cinema è la terza industria degli Stati Uniti. Non è una cosa qualsiasi, è la terza industria. Certo. E quindi è la città che da cui nasce questa terza industria. E quindi evidentemente è molto fattiva. Però sempre nel chiuso, nel silenzio. Io poi sono andato... sono andato anche perché mi avevano fatto un invito per incontrare degli studenti in due università, una della California che si chiama USC e l'altra non mi ricordo nemmeno dove, per incontrare questi studenti che conoscono il cinema italiano, non solo italiano. Ecco, com'è andato questo incontro con gli studenti statunitensi? Perché loro conoscono bene cinema europeo, sì. Sono molto appassionati e sono molto accesi su questo cinema europeo e anche il cinema italiano, quindi loro conoscono il cinema, quello del neorealista eccetera, la commedia italiana molto, la conoscono, si divertono, si interessano. La cosa curiosa è che questi studenti, di cui ho visto queste università clamorose, università che sono dei parchi giganteschi con viali bellissimi, con costruzioni con atri in cui si entra, e poi queste costruzioni sono, hanno ciascuno una proiezione, e poi c'è la parte per esempio che riguarda il Dipartimento del Cinema, che sono due o tre palazzi giganteschi con studios per far esercitare gli studenti, e poi moviole, e poi proiezioni, insomma molti mezzi a disposizione, moltissimi, poi una tecnologia poi raffinata. Allora loro vedono i nostri film europei e non che siano anche iraniani o cosa sia, e sono molto interessati, però sono delusi dal fatto che siano un po' rozzi, un po' poveri. Quindi loro abituati a un film appatinatissimo in cui tutto viene risolto attraverso il computer, attraverso gli effetti speciali. I nostri film li interessano molto, li capiscono e sanno che hanno una loro profondità, però li considerano un po' poveri, insomma, li considerano tecnicamente poveri, un po' rozzi, un po' sì, rozzi, sì, sì, capito? Sì. E questo li deluso un po', quindi tu pensa che quali contraddizioni sì. si svolgono in questa grande città cemeteriale, in cui francamente poi ci sono, ti fanno vedere i locali, ti portano in giro e tutti quanti alla fine ti portano a vedere le vie, ce n'è un paio nella Beverly Hills, quella dei ricchi, oppure anche quella su Santa Monica, dove ci sono quelli che vivono in pensionati, in villette eccetera, sono le ville dei suicidi. Sono, quindi lì è una città del suicidio, c'è niente da fare, perché tu capisci che vai in queste grandi strade molto belle, tutte villette similissime una all'altra, uguali, con il loro giardino prospiciente, poi con il giardinetto posteriore tutto ben organizzato, con la piscinetta, l'albero di sicomoro, che fra l'altro mi aveva molto colpito, per questo albero di sicomoro non sapevo com'era, perché si rinunciava molto di sangue quando ero un ragazzo. E sono degli alberi abbastanza curiosi e insoliti, e quindi il sicomoro, c'hanno tutto questo sicomoro, però vanno lì a riposarsi e a vivere una vita così da abbastanza direi piacente, o da pensionati o anche da chi lavora, che poi la sera va a ritirarsi dopo un'ora e mezza, due di queste macchine che sferiscono per queste grandi vie silenziose, però alla fine poi ci sono le vie dei suicidi, quindi non lo so, questa città è una città fallita, una città fallita. Me l'avevi detto ieri e mi era rimasta impressa questa definizione. Sì, perché dico, questa nostra grande epopea che noi vediamo, che è la propria poi degli Stati Uniti, della conquista dell'Occidente, che partono dalle città dell'Atlantico, New York, Filadelfia, non so che dire, Boston, e a conquistare l'Occidente, questa grande epopea, lotte con gli indiani, morti, cose così, ti fanno vedere che noi vediamo queste villaggi da western molto vivaci, molto con queste vie centrali, con le carrozze, i cavalli avanti e indietro, poi alla fine si arrivano, hanno costruito che cosa? Per costruire questa Los Angeles immensa, che è una città appunto cimiteriale. È fallita, io non so, che è una città fallita, è un progetto secondo me fallito. Mario, l'accoglienza verso questa rassegna di titoli italiani com'è stata? Ma c'era molta gente che andava al Chinese Theater, che è un bellissimo cinema, grandissimo, immenso, organizzato e tecnologicamente meraviglioso, il sonoro, la colonna eccetera, molto bello, molto straordinario. E c'erano un paio di film, io ne ho visti due o tre, di film italiani. Uno era di Base, che era un film che mi ha stupito, perché è un film così molto spettacolare, di Lucisano, molto spettacolare, che racconta una vicenda che si svolge naturalmente a Gerusalemme durante così, che no, mi ha colpito perché è un film, voglio dire, da grande spettacolo per la televisione, di battaglie, urli, combattimenti, eccetera, che riguarda, che è tratto da una sceneggiatura di Lassuso Cecchi, D'Avico e di Flaiano, L'inchiesta. Che però è una, io non credo, è abbastanza inverosimile questa inchiesta, è spettacolare se vogliamo, perché è un imperatore romano che vuol sapere che se è vero che c'è stato un tale che è stato morto sulla croce, che poi il corpo invece è risuscitato. Che, quindi è una sorta di rifacimento, perché c'era già stato il film. Appunto, da un soggetto della Suso Cecchi D'Amico e dei Flaiano, quali sono due persone molto spiritose, molto avvedute, eccetera. Mentre il film non è così, il film è abbastanza inverosibile, è spettacolare. Certo. È così, però voglio dire, insomma, via, è fatto proprio a grandi spaccati. Se ricordo bene, il precedente era di Damiano Damiani e mi era piaciuto. Ecco, io non l'ho visto quello lì, che si chiama L'inchiesta. Sì, L'inchiesta anche quello. Questo qui non lo so perché, però non ha, io non credo che sia, che l'abbiano veramente, hanno preso lo spunto e abbiano rifatto veramente da capo a fondo, perché non credo che Flaiano e la Suso abbiano scritto una cosa così sommaria, se vogliamo. Sono abbastanza rimasto stupito. Ecco, poi no, ma la cosa, però, dunque, la cosa positivissima di tutto questo mio viaggio lì è stato che, oltre che gli incontri che ho avuto, ecco, ho visto queste università che sono veramente, voglio dire, che si stordiscono dalla grandezza, dalla capacità, dalla spesa, dal lusso per cui questi vivono, come si acculturano, come vedono, eccetera. No, ma ho visto un film strapitoso. Borat, l'avete visto? Ah, Borat, ecco, parliamo, visto che esce venerdì, parliamo di Borat. Ah, ma Borat è un film strepitoso, di questo attore, autore, regista coraggiosissimo, molto divertente lui, divertente quello che mette in scena, ma molto coraggioso, perché fa della satira senza esclusione di colpi a tutti. Ma con una capacità poi di presa sul pubblico, con una sua profonda e allegra superficialità che è straordinaria, ma molto divertente oltretutto. Lui poi è un attore che non conoscevo io, è un attore di grandissima capacità. Sì. Poi mi dicono che fa tre personaggi: uno fa questo Borat, che è una specie di pazzo che viene dall'est, poi non si sa bene che dal Kazakistan. Sì, dal Kazakistan, che è privo di qualsiasi rispetto verso tutti, verso qualsiasi cosa che riguarda anche gli Stati Uniti, l'America, chiunque. Ed Eddie è molto molto bravo, lui è molto divertente, ma poi fa un altro personaggio che vorrei vedere, che lui fa, dice, un austriaco cupo, tutto severo, elegantissimo, un intellettuale austriaco, non si sa, che anche quello pare sia una faccia di una satira verso sugli intellettuali, sugli europei, su noi anche, che anche quello è molto penetrante, molto. Bisognerà vederlo, quindi. Forse però andate a vedere questo Borat, io credo che sarà una cosa che avrà un grandissimo riscontro anche. Comunque ha avuto un grosso lancio pubblicitario, sicuramente. Ma vale la pena, veramente vale la pena di vederlo. Come si fa la satira? Una satira molto violenta, molto bella e molto è molto, direi, europea, infatti lui è ebreo, mm-hmm. quindi questi ebrei non sono, sono sempre internazionali, non sono mai né americani né italiani né svedesi, sono al di fuori, sono Mario, tu adesso partirai, ma la settimana prossima ci sei? No, perché vado a Buenos Aires. Ah, quanto sarai? Dice questa cosa al Mar della Plata, cos'è? È un festival al Mar della Plata che non conosco, tra l'altro, che questa plata è un fiume che attraversa l'America del Sud, alle Ande, arriva fino all'Atlantico, il cui estuario è lungo 400 chilometri, porca miseria. Quindi non lo so, io e quindi starai fuori un po', insomma. Beh sì, una decina di giorni. Va bene, allora ci sentiamo al ritorno. Va bene, grazie e buon lavoro. Grazie, ciao Mario. Ciao. Mario? Pronti? Sento un fischio. Perché dovresti abbassare la radio. Sì. Allora, al telefono Mario Monicelli, il regista che ormai fa parte integrante della redazione di Visionari. Come va? Ma abbastanza bene, io ho fatto un viaggio, sono un po' stanco perché... Sempre in giro. Sì, vabbè. E fai bene. Adesso vengo da Buenos Aires, dall'Argentina, da Buenos Aires. Com'è andato? Bene, perché io non c'ero mai stato, quindi la cosa era particolarmente interessante per me. Sai che Marina Spada, la regista milanese, è arrivata seconda con il suo film Come l'ombra, che sarà in distribuzione a maggio, credo, in Italia. Ah sì, lì, perché lì c'era un festival a Mar del Plata. Sì, sì, che sì. Tra l'altro io credevo fosse Mar del Plata, vicino, insomma, a 400-450 chilometri da Buenos Aires, una spiaggia, non lo so, al massimo come Rimini. E invece è una città di 700.000 abitanti, con grattacieli, l'ira di Dio. Si scopre sempre qualcosa. Sono rimasto anche spiazzato, devo dire. Però è una bella città, fanno un festival cui partecipano tutti con grande entusiasmo. Gli argentini sono molto entusiasti, sempre molto, molto generosi. Mm-hmm. Quindi c'è anche una grande attenzione per il cinema. Sì, sì, sono ancora legati. Sono ormai questa ultima generazione, non più tanto, ma sono ancora rimasti ai tempi del cinema italiano, degli anni dell'altro secolo, dei primi anni, insomma degli anni 50, 60. Forse perché un po' legati chiaramente all'immigrazione. Anche sì, ma perché lì sono tutti, sono la metà degli argentini o comunque dei bonaerensi sono di origine italiana, sanno l'italiano, insomma sono legati molto all'Italia. Mm-hmm. Poi io credo che lì questa grande, è una città enorme, immensa, con quartieri che sono grandi, o ciascuno come Roma, perché porta 15-20 milioni di abitanti, non lo sanno nemmeno loro quanti sono. sì, è così. Senti, sono stati proiettati i tuoi lavori? No, è stato proiettato, sì, quell'ultimo film che ho fatto sul deserto, in Tunisia. Sì. Mi hanno dato un premio, un omaggio, insomma, non è che non era in concorso a nulla, era solo così, una visione. È andata benissimo, mm-hmm. insomma, cioè, poi ripeto, loro sono sempre molto propensi, molto entusiasti verso l'Europa e il cinema italiano, soprattutto. Senti, hai avuto modo di vedere anche qualche film? Ma io di loro ne ho visti qualcuno, sì, ma loro però hanno una cinematografia abbastanza aggiornata, sviluppata, cioè sono tecnicamente sono molto aggiornati, sanno, conoscono. Ti hanno fatto una buona impressione, insomma. Sì, mm-hmm. Poi il cinema loro lo vedono, lo vanno a vedere, insomma, hanno i loro attori, i loro divi. È questione che qui noi non sappiamo niente, poi in realtà. Questa è la cosa sì, qui arriva pochissimo del cinema. Sì, arriva pochissimo qui di loro, poco di noi là, c'è ancora questo profumo, questo nome di cinema italiano, allora lo vanno a vedere con grandi speranze e quindi vedo che poi non sono tanto deluso perché se premiano... arrivano secondo con una giovane regista nostra, in fondo gli va anche bene, voglio dire. Certo. Ma, senti, però loro fanno parecchi film, sono anche bravi, sanno anche girare, sanno raccontare, mm-hmm. non è che non siano, è soltanto che io ho l'impressione, questa è un'enorme città, grandissima, con vari quartieri poverissimi, oppure poveri, o se no centrali proprio di grande ricchezza, con grattacieli, grandi palazzi. Cioè è la capitale di un impero, di un grande impero. E come diceva Marrò, però non c'è l'impero, hai capito? Quindi si regge così, in realtà poi sul nulla, su un grande territorio, una grande regione piena di ricchissima, piena di miniere, di beni, di tutto, che però rimangono lì, che non sanno sfruttare. Ho capito. Senti, tra i film che hai visto, qualcosa da particolarmente ti ha impressionato? Ma uno sì, non era male, su un camionista che fa un giro in camion, e che cioè non un camionista, un gruista, uno che porta la gru, e che c'ha una cosa bella, sì, che adombra un po' di neorealismo, insomma, è così, che è anche piacevole, voglio dire, non è soltanto un film, e quindi tratta delle questioni di lavoro. Chissà se lo vedremo mai qui in Italia. Chi lo sa, non lo so, perché è un film francamente che si potrebbe vedere benissimo. Senti Mario, allora, questo periodo particolarmente vivace, hai avuto un premio alla carriera al Milano International Film Festival. Sì, non ci sono potuto andare perché ero appena arrivato e non c'avevo voglia di riprendere un'altra volta, certo. Mettimi in treno, nei vagoni, ho fatto 13 ore filate di aereo, che è una cosa che schianta. Sì. E poi se non sono andato gli ho mandato un ringraziamento. Bene. Bene. E per comunque hai avuto modo di essere presente a Bologna, questa iniziativa Route 77 di video e film del 1977, e tu in quel periodo hai fatto Un borghese piccolo piccolo. Ho fatto Un borghese piccolo piccolo e poi quel cortometraggio, che poi non è tanto corto, episodio, era no First Aid, quello con Sordi, che quel nobile, diciamo, romano vaticanense che raccoglie uno per strada ferito e che si ripromette di notte e cerca di affidarlo alla Croce Rossa, alle militari, eccetera. Non lo vuole nessuno, gira tutta la notte per depositare questo ferito in qualche struttura della capitale, non lo vuole nessuno, lo riporta dove l'ha trovato e se ne va. Senti, Un borghese piccolo piccolo, Alberto Sordi era un po' reticente a farlo. Sì, era un po' reticente perché lui, cioè, fare un personaggio così violento, così poi che dire che è un mostro, alla fine si rivela che è un mostro, e che quindi antipopolare, lui che è popolarissimo sempre dopo lei, non voleva farlo perché questa immagine sua non la voleva, insomma, non voleva cambiare troppo, non voleva che se presentare un'altra. Ma poi alla fine si è convinto, l'ha fatta, anche perché gli ho detto, io avevo fatto con lui già nella Grande Guerra, aveva fatto un soldato molto drammatico che alla fine viene fucilato, eccetera, e allora alla fine l'ha fatto. Però era molto recalcitrante, anche perché poi, se ti ricordi del film, lui finisce proprio che si aggira per Roma, che se trova un coatto che gli dà una spintarella per la strada, lo segue, per cercare di farlo fuori, sì. Diventa un pericolo pubblico, un mostro pericoloso in giro per la città. Quindi sì, però il film l'abbiamo fatto, ho bei ricordi sulle riprese, poi è andato anche molto bene, nonostante che fosse difficile, perché trattava appunto di uno che si faceva giustizia da solo, delle cose, un noir molto spinto, cosa che non ho mai fatto in vita mia, sarà la prima e l'ultima. Senti, questa iniziativa di Bologna sul tutto questo materiale spesso inedito e spesso a rischio distruzione, perché copie si sono spesso deteriorate, sul cinema del 77, che ne pensi di quel periodo e del cinema indipendente che allora insomma esplose? Lo so, quel periodo era proprio però il periodo più drammatico che riguardava poi la storia nostra. Sì. E il fatto è che al solito di quel periodo lì, che era poi gli anni cosiddetti di piombo, col terrorismo, eccetera, con tutti quelli quelle esecuzioni fatte quei due anni lì. Non c'è traccia però del cinema italiano, se non qualche, argomento rimosso, se non qualche cosa così su Moro, che ha fatto Bellone, ma insomma sempre a parte, poi sempre soltanto visto politicamente, ma nella realtà è questione che nessuno sa chi erano questi brigatisti rossi che ammazzavano, come si comportavano, come erano fra loro, come mangiavano, cosa leggevano, come si domandavano, dove vivevano, come si amavano, non si sapeva niente, quindi in realtà poi nessuno ha fatto niente. Sì. E anche a tanti anni di distanza è la stessa cosa, insomma resta un argomento tabù, insomma, nel cinema. No, ma è tabù non perché uno è sempre non osa affrontarlo, perché non se ne sa niente, non se ne sa niente, anche dai processi eccetera, non viene fuori poi la loro vita vera al di fuori dal dibattito politico, oppure quando si preparavano a fare un'azione. È importante per un regista sapere poi al di fuori del momento così cruciale, chi sono, come si comportano, come pensano, cosa fanno. Non abbiamo mai saputo niente. Certo. Senti Mario, vieni stasera alla proiezione dell'anteprima del premio Oscar. Spero di sì, soltanto che c'ho... Ti vengo a prendere se non... No, perché c'ho, no, casomai vengo, mi faccio poi, vado insieme con Marino che mi aiuta, la mia assistente in Africa. E quindi è tornato da un film che faceva, allora mi ha detto se andavamo a cena insieme, insomma è stato uno bravo che mi ha aiutato, viene con degli altri, quindi andrò con lui e quindi cercherò di riottarlo, di venire lì. Va bene, allora vediamo. Ci sentiamo più tardi. Va bene. Un abbraccio. Ciao, Mario. Grazie e buon lavoro. Grazie. A tutti voi, ciao. Bene, al telefono Mario Monicelli. Oggi vorremmo dedicare la puntata e anche un ricordo a Luigi Comencini che ci ha lasciati la scorsa settimana, e lo facciamo con... mi sei venuto in mente subito tu, Mario. Sì, grazie. Mi fa piacere che tu ti ricordi di me, comunque di poter parlare di Luigi, col quale sono stato molto amico fin da Milano, negli anni... direi negli primi anni 30, ecco, fra il 30 e il 35. Ma Comencini è stato un rappresentante del cinema italiano, direi particolare, perché ha stato un regista. I suoi film, ci sono dei film che sono straordinari, nel senso che non appartengono né alla commedia all'italiana in senso stretto, perché lui faceva dei film anche di commedia divertenti, pungenti, ma sempre con un'anima, un tono più gentile. Era una persona molto gentile lui, di animo, di modi, e però molto, molto profondo. Quindi quando racconta non so, l'8 settembre, vedete, lo racconta con dei toni con qualche ironia, ma molto però patetici, molto comprensivi, molto legati. La sua ironia non era mai dura o acida. Stai parlando di Tutti a casa, che tra l'altro è uno dei miei film suoi preferiti. Tutti a casa, per citarne uno, perché poi contemporaneamente no, ma insomma è un suo film anche che non ha nulla a che vedere con Tutti a casa, per dire la cosa opposta, è quello su dei bambini, come si chiama, Incompreso, un film di grande successo. Era su un libro molto patetico, molto così, però anche lui, questi bambini, l'episodio di questi due adolescenti, li sapeva trattare con grande grazia, con grande capacità e comprensione. Poi c'ha dei film, per esempio, come La ragazza di Bube. La ragazza di Bube è un film straordinario, sulla Toscana, che lui tra l'altro non conosceva, perché lui era svizzero milanese. Io lo prendevo spesso in giro perché era svizzero milanese, e credo anche ma avesse fatto studi di medicina, adesso non mi ricordo bene. E invece quella che è La ragazza di Bube è un film con un piglio, con un'apertura, con una grazia, una e anche però con una certa indipendenza proprio, direi, del libro del Toscano proprio. Sì, uno degli esempi del rapporto tra cinema e letteratura, insomma. Già, con Cassola, poi dico Pinocchio, dico Collodi. Per chi ha intorno ai 40 anni, a me ha segnato l'immaginario da piccolo, insomma, è stato folgorante quel Pinocchio televisivo. Appunto, voglio dire, anche lì la letteratura, lui aveva queste grandi capacità di trattare questi argomenti con una profondità, con una grazia che era veramente impagabile. D'altra parte, aver fatto Pinocchio è un argomento, è un personaggio, non so che chiamarlo, un libro che non perdona, ha punito tutti, nessuno si è salvato con Pinocchio. Meno male, lui si è salvato, l'unico a cui è vero. E gli altri proprio è stato veramente pericolosissimo, vai a toccare Pinocchio. L'unico che si è salvato è proprio Luigi. Aveva a disposizione anche un cast eccezionale. Sì, ma il cast a disposizione è un regista, se lo cerca, infatti. Che c'era a disposizione, certo. Sono pronti loro. Certo. È coraggioso aver preso la loro Brigida a fare la fatina, per esempio. Comunque ci vuole molto coraggio. E poi senza effetti speciali, insomma, era delle scenografie in cui si vede proprio l'opera degli artigiani del cinema. Beh sì, certo, poi lui era amico e aveva al suo fianco Gherardi, che è stato un grande scenografo. Comunque va bene, ma comunque dico, è tutto il tono, il film, la grana, la felicità e il figlio come Ciccio Ingrassia, insomma, sono tutte cose che di grande coraggio. Quel bambino, vabbè, lui voleva quei bambini, aveva una sua mano speciale, una sua felicità speciale. Comunque, però, voglio dire, sono tutte cose che le vediamo, che sono poi un altro film che si ricorda pochissimo, ma a mio avviso strepitoso, L'infanzia di Casanova. Mm-hmm, è una cosa, anche quello, perché quello bisognerebbe veramente farne oggetto di una serata, di un pomeriggio. È una cosa anche quella, così delicata, così fine, così precisa, così piena di delicatezze, di felicità nel girare, nel rappresentare questo giovanetto con quel destino, con una grande sceneggiatura che c'era, quella della Suso Cecchi d'Amico, amica di Covencini, con cui hanno lavorato spesso insieme con grande grazia. Insomma, c'ha una filmografia straordinaria. È peccato che però se ne ricordi poco, le rassegne, le cose dei film Covencini. Sì, se ne parla, si dice Covencini, certo, però questi film non si fanno vedere. Lo dico anche per la Casa del Cinema, eccetera, dovrebbe anche fare ricordare questi grandi grandi anime morte, insomma, queste anime che sono scomparse. Un'altra cosa che non c'è più probabilmente in questi tempi è che prima gli autori, ma tutto un po' il mondo del cinema, era più a contatto, ci si frequentava di più, c'era più scambio. Beh, quello è stata una stagione di mezzo dopoguerra in cui eravamo tutti a contatto, eravamo tutti in amicizia, senza gelosia, senza competizione, perché poi c'era lavoro per tutti. Ma non eravamo soltanto noi del cinema, erano gli italiani che erano molto contatti, tutti erano a contatto fra loro, tutti solidari, tutti cercavano di rimettere in piedi questa penisola dopo la dittatura, quella dittatura stupida, infame, e dopo la sconfitta, la macerie, i bombardamenti, l'occupazione. L'Italia era una maceria. C'era più solidarietà. Dopo tutti quanti gli italiani, a qualunque, come posso dire, chiunque appartenessero a qualunque tipo di lavoro, eccetera, erano tutti molto, molto comprensivi l'uno con l'altro, solidari, si aiutavano, non c'erano brutture, violenze, c'era soltanto molta comprensione. E infatti l'Italia è stata ricostruita molto presto, molto presto, perché c'erano questi Italia che quando sono fattivi sono molto intelligenti, sono molto pieni di idee per rimettere in piedi, per arrangiarsi, e quindi l'avevano rimessa in piedi, l'avevano rimessa l'Italia. Poi c'è stata una svolta tremenda, non so, vabbè, lasciamo andare, questo non c'entra. Mario, io ti ringrazio per questo ricordo, e poi se tu non hai impegni domani mattina c'è un bel film e poi nel pomeriggio ci sentiamo e magari ci mettiamo d'accordo. C'è un bel film? Cosa vuol dire? C'è un'anteprima che vorrei che tu seguissi. Dove? Insieme a noi, alla Casa del No, ah. No, poi ti spiego, ti richiamo nel pomeriggio. Va bene, se sono libero volentieri. Figurati. Ah, bene, va sono bene. Contento. Grazie. Un abbraccio Mario. Ciao, un abbraccio a tutti, ciao. Mario Monicelli, buongiorno. Salve, buongiorno a voi. Oh, allora, l'ultima puntata prima della pausa estiva, non potevi mancare. Andate in vacanza. Andiamo. Sì, un po' anche di vacanza ci vuole. Allora, io avevo preso spunto anche per chiamarti per un'intervista che avevo letto tua su Film TV rispetto alle proposte per una nuova legge sul cinema dei 100 autori, e allora volevo sapere anche un tuo punto di vista così dal mezzo radiofonico. Sì, ma il mio punto di vista è sempre quello. Mm-hmm. Adesso poi ascoltavo la trasmissione vostra lì di Revolver di Paolo Spina. Stavo sentendo. Ma sempre dipende sempre dalla distribuzione. Sì. Adesso la Revolver ormai si era. Chi parlava per conto di Revolver? Insomma, Paolo Spina è il titolare, fondatore. Ah, ecco, il quale diceva che qui alla fine bisogna adattarsi a avere una distribuzione individuale attraverso che si può dire? Attraverso lo scaricamento da internet. Mm-hmm. Quella è l'unica maniera di far vedere prodotto, una propria cosa, non c'è altra possibilità. E allora se il cinema si deve indirizzare verso quella strada, vabbè, allora diventerà come un libro, cioè ognuno cerca la propria distribuzione, la propria, come un libraio, come quindi lo dà in giro. Io per me se uno ha da manifestare qualche cosa, vuole esprimersi attraverso questo mezzo di espressione che è il cinema, l'immagine in movimento, va benissimo. E secondo te la politica in che modo può intervenire sul cinema in senso positivo? Lo vedi che tutto questo è fatto appunto perché la politica non interviene o interviene in malo modo, e quindi uno cerca di risolvere le cose autonomamente, personalmente. Certo. Questo alla fine è così, salvo questi festival come Locarno ed altri che possono aiutare, sì, ma insomma in termini abbastanza ridotti. Ecco. La verità è che se un autore, un giovane soprattutto, non parliamo di quelli della mia età che ormai ha da dire qualche cosa, non sa come fare, questa è la verità. Può trovare anche attraverso sacrifici di trovare un minimo finanziamento per amicizie eccetera per realizzare una sua opera, poi dopo non sa come farla vedere. Sì, è quello il problema. Quello è il problema vero e proprio. Quindi l'unica cosa, quanto pare, io poi sono un po' tagliato fuori da questa cosa perché non so manco come si fa a rubacchiare da un multimedia un film, però quella è l'unica maniera, a quanto capisco, a quanto vedo. Senti Mario, se ti va, allora io ti chiedo anche un ricordo di Bergman e Antonioni, visto insomma che è il tema degli ultimi giorni. Sono stati due grandi di una generazione ormai scomparsa o quasi del tutto scomparsa dell'immediato dopoguerra, del dopoguerra. Che, ma non solo nel cinema però, sì, è stata una generazione molto felice, devo dire, molto, molto viva nella letteratura, nella musica, un po' dappertutto. Sì, sì. Ecco, e questi qui sono due scomparsi. Specialmente, sì, erano due grandi autori, sono stati due grandi autori, ma come si chiama? Lì Bergman era un grande autore, io lo seguivo, l'ho visto, mm-hmm. Ero molto influenzato, eccetera, però mi un po' mi indignava anche, perché si occupava soltanto, questo autore, soltanto di questa grande borghesia, diciamo, del nord Europa, occupata soltanto a problemi di esistenziali, artistici, di realizzare la propria visione, certo, di affermazione, come posso dire, nel campo della musica, pianisti, violinisti, pittori, certo, eccetera. Tu hai un'altra prospettiva comunque nel tuo lavoro. Avevo solo questo tipo di come posso dire, di tematica non solo, ma anche di preoccupazioni, si rivolgeva ad altro, quindi era questa grande borghesia benestante, aveva risolto tutti i problemi della vita, materiali, ne erano rimasti soltanto questi, francamente. Porca miseria, com'è possibile? Senti, con Antonioni com'era il rapporto? Beh, io avevo un rapporto molto carino con Antonioni, perché eravamo amici al di fuori del cinema, ci vedevamo, stavamo insieme a casa sua, a casa mia, fuori, anche attraverso la Vitti, quando lui era compagno della Vitti, e quindi era una cosa molto familiare, molto direi di consuetudine, perché lui era una persona molto spiritosa, molto anche si divertiva anche a fare degli scherzi, così, voglio dire, perché dà un'immagine del suo cinema di uno molto chiuso, rigoroso, era nel lavoro, ma come cessava il lavoro entrava nei rapporti della vita, diventava un'altra persona. Quindi era un po' il Mr. Hyde, cioè diventava una persona scontrosa, intollerante in un certo senso, molto chiusa, molto dura rispetto al lavoro, rispetto a quello che era dopo, che era nella vita, ecco qua. Senti Mario, posso fare una domanda? Certo. Nell'ambito della sua opera c'è magari un film, un titolo che per te è particolarmente significativo, visto che lo conoscevi bene? Della sua opera? Della sua opera, dei suoi film, di tutto il suo lavoro. Beh, quelli che io proprio che ami di più, dei grandissimi film sono il Blow Up, fa vedere uno a Londra, in Inghilterra, oltretutto poi siccome io sono fissato col fatto che il cinema è cominciato a corrompersi da quando è stato inventato il sonoro, quindi era un film muto, c'era il dialogo e era molto poco evidente, non aveva la vera importanza, erano le immagini, quello che raccontava di quella Londra, Londra, quella del di Mari Quant, eccetera. E poi il Professore delle Porte, anche un altro film basato sulle immagini, solo le immagini, e poco, veramente poco, il dialogo, non dico il sonoro, ma il dialogo. Ecco qua. Tra l'altro è anche il film che lui stesso preferiva, a quanto diceva. Lo credo, perché lui vedeva questo cinema come il vero grande cinema, ma poi un po' tutti dei veri grandi registi era proprio veramente sulle immagini. Il dialogo col sonoro era secondario, e sul muto anche, secondo me, sul muto, ma no, ma anche sul bianco e nero. I film di Antonioni, soprattutto, ma del resto anche di Bergman, quelli in bianco e nero, avevano una tavolozza, direi, di colori come il colore non ha mai avuto. Delle sfumature, poi i rapporti fra dei grigi, dei bianchi, dei neri più o meno profondi. Erano delle opere veramente, direi, multicolori. Prima con Maurizio ricordavamo il Grido. A me il Grido è piaciuto tantissimo. Il Grido, sì, perché è quello anche più sul sociale. Anche lui era uno che si rivolgeva sempre a questa borghesia illuminata, che aveva queste grandi, come posso dire, problemi di realizzarsi, di comunicare, di avere rapporti con gli altri, non solo con l'altro sesso, ma con le altre persone, con le altre anime, direi. Certo. E anche questo, voglio dire, è che riguardava poco il sociale. Comunque però era anche quello un tema. Ha colpito molti il grido, devo dire, è rimasto nella memoria un po'. Senti Mario, hai girato un po' ultimamente, stavi sempre in giro. Sì, sono stato in giro per il mondo. Sì. Hai visto qualcosa di interessante, qualche film ultimamente che ci vuoi segnalare? Beh, io ho visto in Argentina un film, un buon film, che fra l'altro è a Teheran. A Teheran ho visto un film di un... curioso che l'abbiano fatto, che quindi perché dice di Teheran, perché c'è una cinematografia molto sviluppata lì, sì. Che è anche tecnicamente avanzata, sono molto attrezzati. Tra l'altro hai incontrato pure Kiarostami, Kiarostami fa dei film poi molto particolari, che sono i suoi film, ma lì fanno anche dei film di guerra sulla la guerra con l'Iran, cioè con l'Iraq. E poi film, fanno film, c'era un film anche, direi una commedia, di un furbacchione che si vuol far passare per un ayatollah, e così fa finta di essere così un maestro di teologia coranica, e invece è un imbroglione. Ma è una cosa però sarcastica, divertente. Ah, bene. Quindi voglio dire, sono anche abbastanza avanzati da quel punto di vista lì. E poi ho visto, loro avevano una rassegna di film asiatici, quindi dell'Uzbekistan, da Arkmenistan, però molto avanzati, molto belli anche quelli, turchi. Sono molto avanzati, molto, molto belli. Io sono rimasto abbastanza sorpreso da quello che ho visto. Proprio, diciamo, chissà se arriveranno mai in Italia queste opere. No, mai, anche perché la distribuzione è in mano americana, da fare. Come non arrivano i film italiani, ma non arrivano ancora meno quelli iraniani. Mario, io ti abbraccio, ci sentiamo presto. Sentiamo, fate buona vacanza, buona. Complimenti per la Radio Onda Rossa, che mi piace, mi diverte, bene, sia musicalmente, sia tutta la musica e le cose che ci dite. Grazie, io andrò a Locarno e ti penserò da lì. Ah, ecco, a Locarno. Al festival, è un bel festival, bene, un bel festival nuovo, avanzato, dove ho visto dei bellissimi musical cinesi due o tre anni fa. Sono rimasto stupito. Un abbraccio. Grazie, ciao, anche Mario, a te, buon lavoro. Ciao. Allora buon pomeriggio a Mario Monicelli. A te, buon pomeriggio a te e ai tuoi ascoltatori. Come stai, caro? Abbastanza bene, sto mangiando. Bene. Allora, la scorsa settimana ci siamo visti alla proiezione del documentario di Daniele Segre, Morire di lavoro, sì. E volevo sapere un po' le tue impressioni. Beh, è un documentario molto bello, molto intenso, coraggioso, perché non molla la presa, non molla l'intento fino all'ultimo, senza fare nessuna concessione, con una galleria di espressioni, di facce, di racconti, direi straordinaria, ecco, insomma. Certo, non bisogna credere di andare a vedere una cosa così, come posso dire, rilassante, o soltanto interessante, è una cosa che colpisce molto, colpisce duro. Senti, tu hai avuto modo, mi raccontavi, di vedere anche in fabbrica della Comencini. Sì, la sto cercando al telefono, ma non la trovo, non c'è mai nessuno, perché volevo chiamarla per dirle che mi è piaciuto molto, mi ha fatto molta impressione. L'abbiamo avuto? È un bellissimo racconto, brava, è stata proprio brava. Però tenero, senza essere troppo sdolcinato, racconta tutto, racconta in maniera giusta, è bello, è una cosa anche emozionante, direi, bellissimo documentario. Non so come mai l'hanno dato alle 11:30 di sera, a mezzanotte, quando è stato? Ma non volevano neanche darlo, sì, c'è stato il dibattito. Quando c'è stato? Io sulla trasmissione del documentario della Comencini. C'è stato dove? In televisione, no? Sui giornali, perché non volevano darlo. Ah, sui giornali, sì, lo so. Non volevano trasmetterlo, praticamente. Non volevano trasmetterlo? No, non volevano trasmetterlo. Eh beh, ma sai, la televisione trasmette solo storie d'amore, tradimenti, sesso e così, eccetera, convinta che il pubblico veda solo quello e quindi la pubblicità. La televisione è schiava della pubblicità, non è mica del mercato, e quindi questo è la nostra condizione di stato borghese. Siamo schiavi del mercato e della pubblicità. Senti Mario, il cinema ultimamente sta tornando ad occuparsi del mondo del lavoro, viste le difficoltà, i morti sul lavoro, la precarietà. Cosa ne pensi di questo? Penso che era ora che se lo facesse, perché non se ne è mai occupato ultimamente, no? C'è stato un periodo 40 anni fa che se ne occupava molto, sì. Poi dopo si è perso sempre per questa faccenda, perché quel mondo del lavoro, quello che avviene, le lotte, anche le vincite, eccetera, non interessano, secondo quindi il pubblico, quindi la pubblicità non viene, non ripaga, e quindi viene scartato sempre in favore di cose più piccole, miserabili, stupide. Così è il mondo dell'Occidente, diciamo, è così. Senti Mario, in chiusura, lo sai che stiamo realizzando un documentario sui 30 anni di Radio Onda Rossa, e visto che tu sei un ascoltatore volevo chiederti se saresti disponibile per eventualmente, certo, venirci a trovare qui a fare un'intervista filmata. Volentieri. Va bene, ti aspettiamo. Mi sento onorato, siete molto carini, vi ringrazio. Bene Mario, allora ci sentiremo presto. Ciao, buon lavoro, buon pomeriggio, buon appetito. Ciao. grazie tante. Ciao. Ho una piacevolissima sorpresa, torna dopo un po' di tempo Mario Monicelli con noi, eccoci Mario. Ciao. Come va? Beh, non c'è male, dove state questo caldo, me la cavo. Infatti mi aspettavo che tu fossi già in vacanza. Ma sai, vacanza poi alla fine faccio sempre vacanza. Che sarà basico poi. Vabbè. Allora, sei tornato alla regia per un... Una cosa molto piccola, semplice, come posso dire, è una specie di accenni al volo di un quartiere, un rione di Roma, il più antico, credo. Monti, sì. Il rione della Suburra. Ma così ho voluto fare, prendere degli appunti. Sì. Ma sì, senza il tono romano, senza imperialismi, senza enfasi, sì, anzi, dagli il tono che ha il rione, molto quotidiano, di artigiani, di botteghe, molte che non si conoscono ma molto curiose, di vie solitarie percorse da passanti modesti, barbieri e poi tintori, insomma, ecco, dare una cosa realtà molto... variopinta. Come? Una realtà variopinta. Sì, variopinta, è un po' resistente, soprattutto poi. Senza molta sottolineatura. Sì, certo. Sì. Allora, il titolo è Vicino al Colosseo c'è Monti, sarà presentato a Venezia. Sì, l'hanno visto, fra i corti, fuori concorso e tutto, Sì, la daranno a Venezia. Sembra quasi che l'abbiamo saputo prima noi giornalisti di te che eri a Venezia. Cioè, perché? Ci hanno detto, lui non lo sa ancora. Ah sì, è vero, perché... Hai visto? Sì, sì, ma mi fa piacere naturalmente. È importante che si capisca che è un ritrattino così fatto per accenni proprio, senza approfondimenti, ecco. Oh, ma Mario, immagino insomma che quest'idea di filmare questo quartiere sia nato dall'esperienza diretta, cioè dal viverlo. Certo, perché io ci vivo ormai da quasi 25 anni. Vivi a Monti? A Monti, sì. E quindi lo conoscevo bene, sapevo varie cose. Mi salutano tutti, conosco tutti, sono molto inserito, quindi voglio dire, sono quelle cose che si possono fare anche perché uno è molto le conosce bene, è conosciuto bene, e quindi gli viene la voglia di farlo. Non è che si possa fare così. Senti, domanda: a Venezia sarai lì per il film, ma magari riuscirai anche a vederne qualcun altro? Di documentario? No, no, di film a Venezia, dato sì, che ci sono 20 italiani. Dipende dal tempo in cui ci sto. Lo so. Sì, certo, perché dici? 20 italiani. È un numero che insomma è abbastanza di rilievo, no? Sì, certo. Di solito, è interessante. Certo. Che mi dici? Secondo te perché il cinema? Sono contento. Dirò che negli ultimi 2 o 3 anni c'è un risveglio del cinema nostro, del cinema italiano, mi pare di aver capito. Mm-hmm. È stato un po' così, un po' sotto coperta per una 20 anni, mi pare che adesso venga fuori. Beh, a Cannes, venga all'aperto, insomma. Sì. Sì, sì. E già naturalmente Cannes, ma anche un po' prima di Cannes si erano visti dei movimenti. Adesso c'è un sacco di gente nuova, ragazzi nuovi che sono bravi, che raccontano l'Italia quella autentica, non soltanto così per passare il tempo di divertimenti, ma anche di verità, di realtà, qualche volta divertenti, qualche volta no, qualche volta anche un po' dure, ecco. Mario, in questi mesi che non ci siamo sentiti, hai girato per festival, hai visto cose interessanti da segnalare? Ma veramente non ho girato per festival, sì, sono stato dove? Sono stato fuori, sono stato in Calabria un paio di volte, ma direi che ho visto tutte cose che erano già passate prima nel cinema italiano. Certo. E qualche cosa di interessante c'è, quel film di Bentivoglio, quello, insomma, è un autore che si capisce che ha qualcosa da dire. E poi c'è naturalmente Sorrentino, Bechis, insomma ci sono dei... Senti, e tu che cosa hai avuto modo di vedere appunto al cinema di questi che stai un po' citando, se c'è qualcuno che ti è piaciuto particolarmente? Beh sì, chi mi è piaciuto, per le ultime cose che ho visto che ho avuto mi ha colpito, direi che l'ultimo che ho visto che mi ha segnalato qualcuno che ha qualcosa da raccontare è proprio quello di Bentivoglio, che racconta direi la storia di un'iniziazione a imparare la musica, certo, lascia perdere giorni, in un'orchestra, a uscire dalla provincia, a andare un po' fuori, ecco. Senti, tornando al film, cosa ti piace del tuo quartiere, Mario? Beh, questa cosa nascosta, piccola, dove ci sono delle verità veramente quotidiane, le ottoparate che si fanno quando viene l'autunno, i banchetti all'aperto, le feste di paese, la processione, quelle cose che si erano dimenticate, che appartenevano a un'Italia prima della guerra, direi. Sono rimaste qui qualche cosa che ha sopravvissuto. E poi sono delle cose nascoste, ci sono il rione Monti, è un rione, intanto si chiama Monti perché è fatto di salite e discese, anche faticose a volte, il quartiere è proprio fatto di impennate continue. E poi c'ha dei giardini dietro le mura che non apparirebbero, certe piccole vie tranquille, dietro le mura hanno dei giardini che sono di Oriente, con palme, con bambù, tu non c'hai idea, è una cosa insolita, veramente strana. Cercavo anche di dare qualche notizia di queste cose, ecco. molto a volo d'uccello, senza approfondire niente. Ecco, Monti, alcuni aspetti popolari hanno resistito nel tempo, però anche come è successo ad altri quartieri del centro storico, comunque delle trasformazioni. Ma credo che a Roma sia capiti spesso questo, oppure capita che vengono stravolti, infatti, che arrivano i cinesi, turisti che occupano le case, affittano le case, allora cambiano proprio la natura del quartiere, il quale si deve difendere e non affittare. Ecco, per esempio Monti, rispetto penso a un altro quartiere storico come Trastevere, si è modificato di meno. Sì, si sta difendendo di più, molto di più. Speriamo che continui. Ecco, questo piccolo documentario è una spinta a non farlo modificare. Sai forse anche perché si è difeso meglio? Proprio per la sua struttura è più difficile da percorrere. Sì, è difficile da percorrere, non ci sono cose storiche piacevolissime, piazze, strade, chiese, eccetera. Ci sono cose sempre piccole, minori, di secondo piano, ecco. Sì. Ci vediamo a Venezia, io ci sarò e mi farà molto piacere salutarvi. Anche a me ci farà piacere salutarvi a tutti. Mario, un abbraccio e a presto. Anche a te, grazie e buon lavoro. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.